una passatina di pasta asciutta, ma leggera leggera, però mi sono mangiato mezza cordola dopo fatta al forno. Cavolo, a me mi piace un bel lo stesso, anche quel piselli mi piace. K di positivo, no, questa era fatta al forno, però la signora ha mollato con il peperoncino. Ah, quindi c'è sceso qualche bicchiere di vino anche? Diciamo che due bicchieri qualcosa me li sono fatti. Andava, è un po' pesante la cosa, ma c'è buona. Cappa di positivo, fai che? Ma non è che mi faranno male questi due bicchieri di vino, no? Non è, sarà il caso di mettermi un altro? Ah, ma mi sa proprio Giuseppe che ce ne vuole un altro, col peperoncino, guarda, ci stava che non è un divino, E allora su che andiamo? Avanti. Riprendi Gianni. Io non ho mangiato roba normale, ho mangiato carne, i gnocchetti alla sarda fatti con il sughetto, con la salsiccia, e poi pollo e cose di salata. Ma di noce, la morte sua è la rolata con i pisili, confermo già, è la morte sua, È fatto il comita col formaggio sardo, di quello piccante. Mamma mia, la parola si vede bene già. Attenzione, fai chito, caro papà. Mi dica, signor Giuseppe, venga avanti, venga. E sbaglio, ho sentito parlare di rolata. Eia. Le gusta? Mizzica se mi gusta, mizzica. Sai perché, Fachè? Perché ho visto mia moglie passando lì in cucina, ha fatto testa coda come ha frenato, no? con le ciabatte. Perché ha detto, guarda, dice, quel tuo amico si tocca la mano con te, perché io me ne mangio una intera, non voglio primo, però quando fa rolata guai, è la morte, anzi, la morte mia no, è la morte della rolata, che me la mangio tutta. Confermo, è troppo buona, La verità si dice che è troppo buona, Giuseppe, non ce n'è per nessuno, Oh Gianni! Sì? Se riusciamo a organizzare, non ti dico adesso, una di questi sabati, che poi la domenica si riposa tutti, ci facciamo un salto da qualche parte, ce lo facciamo preparare un menù. Beh, possiamo farlo, sì, non c'è problema. Tanto che non si paghi assai. Se è una cosa accessibile, sì. Si può chiedere anche lì da Sandrino mio, già, io ci sono stato. Ma si mangia alla grande e si spende poco. Se chi è questo Sandrino, dove rimane? Allora, da Sandrino, lo sai dov'è? Hai visto proprio l'ingresso della salita di Monte Oro, dove c'è anche il deposito dei Vigili del Fuoco? Cappa. Ecco, sopra il deposito dei Vigili del Fuoco c'è la spaghetteria. Ah, è fuori Sassari, dai, non è per quello che non la conoscevo. Non sono mai andato, no, ti dico la verità. È una spaghetteria, ma fa anche altro, roba la sassarese, roba così. Cappa. Tu fai che ci sei mai stato in quegli asparagi? No, la verità si dica, Giuseppe, no, i pompini, ma la via retro del pompini. Allora, ti spiego, no? Tu hai presente proprio l'inizio della salita per prendere Monte Oro? Sì. Ecco, invece di prendere la salita, giri lì dove c'è la rotatoria, sulla sinistra, ed entri dentro quel piazzale. E ci sono fuori sempre posteggiati degli automezzi dei Vigili del Fuoco, ma presumo che quella sia un'officina, Sopra quelle cose lì c'è proprio spaghetteria da Sandrino. Ah, cappa. Qualche giorno ci organizziamo e andiamo. Io te lo dico, lo sai perché? Mi hanno portato, devo essere sincero, perché io rientrando da Ghiero lo vedevo sempre, no, il coso grande. E niente, ti dico la verità, mi sono trovato veramente bene perché posto pulito, mangia bene, cioè ti porta dei primi che sono stratosferici, e i secondi puoi prendere quello che vuoi. Noi gli possiamo chiedere anche un giro di menù, ci facciamo fare il pezzo e non c'è problema. Però vi posso dire che io mi sono trovato veramente bene, avanti doppio rubo. Si può fare, anche venerdì si può fare, tanto il sabato non lavori, anche venerdì, sabato, questo sabato perché poi rientro al lavoro, è un casino. K di positivo, facciamo un passamano e vediamo un po', che ci vuol fare, per me va bene, e la compagnia poi quando è buona, dico bene, fa che? Positivo, lo credo bene, è positivo al 100. Avanti Vela, ben ritratto. Hola, ecco qua. Volevo sapere dove era Sandrino, Giuseppe. Poveraccio, lui adesso è lì in via San Paolo, però ha rilevato tutta la moglie. Il capo, quello lo sapevo dove è Sandrino, la spaghetteria, dai. Volevo sapere dove si trova. Hai presente dove c'è il coso dei vigili del fuoco? Presumo che sia un'officina, perché noi abbiamo posteggiato le macchine lì, ho visto c'erano degli automezzi fuori, no? Ed è proprio all'imboccatura delle cose di Monteoro, dove c'erano che hanno fatto con la rotatoria lì, mi hai capito, Birba? Ah, lì è praticamente dove gli porto la bomba io, dai. Cappa di positivo, se non mi ricordo male, una volta avevi detto che gli portavi i bomboloni, quelli grandi. Sto scherzando, certo la conosco. Se la regola la bomba, sennò come ti magneti. Lì si parcheggia sotto, ma si picchia la rampa, si sale sopra e c'è il parcheggio sopra, lo sai tu. Sopra proprio la terrazza c'è il parcheggio. Cappa di positivo, no, noi abbiamo posteggiato giù e ho fatto una rampa di scale per salire su al ristorante, però ti devo dire che essendo giù la prima volta che andavo, sono andato con degli amici che lo conoscevano bene, mi ha fatto una bellissima impressione perché ho mangiato veramente bene. Cappa si mangia bene, la spaghettina si arriva, è stato attrattivo di sicurezza dopo... Dopo il sole c'è, se l'ha rilevata la moglie, diciamo, vabbè, non è la moglie, l'ha rilevata la sua compagna, perché la moglie fa tutt'altro, ragazzo, pratico. Comunque, si mangia bene, si sta bene, e tutto quanto, è abbondante pure. K di positivo per fa, e confermo tutto al 100, perché il primo che mi hanno fuori, mi ricordo sempre, avevo preso una carbonara, ed ero anni, anni, anni che non gustavo una carbonara così buona. K, mi rialzo, fa per Gianni anche mi, Gianni va al Boeing a mangiare i cosi, cavali, mentre ne fanno una passata, già te ne fanno dimenticare pure. Così è. Ma che? Che ha già fatto il generale? Bisogna vedere anche il prezzo. Bisogna vedere? Prezzo, quanto te li fanno pagare? No, accessibile, a voglia, accessibile, fregate. Allora, proviamo, ci andiamo tutti insieme, sabato, sabato. Ma se non va, se non sbaglio... un primo ha scelto, un secondo ha scelto, contorno e tutte quante cose, mi pare che sia 11 euro. E allora gli va bene. Sbaglio Giuseppe? No, credo che non sbagli. E poi anche se fosse 15 se li vali tutti. Io lo credo, se tu hai visto le porzioni ti posso confermare, cioè se hai visto, se le hai mangiate. Le porzioni, ti posso assicurare, se ne vale tutto. Cappa di positivo, ho visto le porzioni, il servizio, la gente che va lì, che sono tutti gente che lavorano, tipo gli operai, commessi di Conforama, ho visto c'erano militari, tutta quella gente lì, ti posso dire che ottimo servizio, buona la roba e la pulizia è una cosa che mi ha colpito, perché è sera, però devi prenotare, perché mi pare il posto non ce n'è. Gli altri giorni no, ma di sabato, sabato sera sì. E beh, andiamo a vedere lì per parte, insieme. Siamo qua pure. Andiamo a venerdì, fatelo io, così almeno non è sabato, non dobbiamo prenotare nulla, andiamo insieme. Guarda, domani te lo dico, domani intanto c'è proprio la bombola per noi, domani te lo dico se c'è la prenotazione. E niente. Ma che? Dimmi. Tu sabato non lavori? Negativo. E quindi sei di nostri? Penso proprio di sì. Cava. Ti conferma. Se no per la prenotazione non c'è posto, se non c'è posto già me lo fanno il posto. Basta a dirlo, io dico e me lo lascio, però non mi assicura, Cappa. Cavolo, che cappa brutto che mi è uscito però. Prova fai, cappa. Cappa. Mamma mia, e chi è? Mi sono fatto paura da solo, no, aspetta. Fallo tu, Gianni, fallo tu. Che cosa? Cappa. Il 21. ho capito. E poco fa è entrato Mario, ma è andato via così, senza... Io non lo sentivo, a dire la verità. Ma se questo quattro voci da portarsi mi ha chiamato nella lampada e non mi dirigi. O vedi la rete, se no tagli di mira e entra il soccorso lui, non è colpa mia. Allora ci sei, Mario? Ma non ho fatto entrare poco fa, ma avete mandato una domanda, rimanete la ragione, continuiti, ciao. Dai, riprendi, fa che non ci sta problema, dai. Ma non hai bisogno di incazzarsi, Mario. Certo, sono quasi tutta la sera, poi è importante, scusami. Mario. Da proprio non parte l'appendice da niente, bubù. Dai, non ci sta problema, non ci sta problema, questa sera non si capisce niente perché siamo da una portante all'altra e io lo vedo solo a nuda e non so cosa dire. Se l'avessi sentito sarebbe entrato tranquillamente, come siamo abituati a far entrare la gente, poi io non è che mi nascondo dietro un dito. Se non l'ho sentito dico che non l'ho sentito, tutto lì. Mi dispiace che l'abbia presa così, però non ripeto, non l'ho sentito assolutamente, anche perché con queste portanti che stanno andando e tornando stasera io non vado compreso più nulla ai loghi, e avanti qualche. Ah, io mi attesi, ci sono tanti portanti, niente proprio da sotto, boh, sblatterete e cosa, io cosa mi ti dico? Ma se è capitato io, distrattamente, io non ci ho proprio mandato nessuno a quel paese, per carità di Dio. Le porte sono sempre aperte a tutti e non vorrei che passassi il cattivo, tutto qua. È tappa di positivo qualche, e anche le parole che stai dicendo tu sono giuste perché niente, funziona così, non penso di aver detto niente di male, per l'amor di Dio. Sì, infatti, ma comunque, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a questa bella spaghettata, se riusciamo a organizzarcela. Capparoccio, ma questo venerdì? Ma se coincide io, per me va bene, perché se poi ci sta qualche problema da qui a venerdì abbiamo alcuni giorni ancora davanti a noi, no? Dopodiché niente, vediamo, non ci sta problema, perché. Cappa di noce, va bene, dai, già a quella venerdì, già c'è tempo, dai, io sì. Non c'è problema, dai. Anda bene meda, qualche, non ci sta assolutamente problema, non ci sta problema, mannaggia. Mannaggia quanto siamo nervosi stasera, cavo. Cappa di positivo, adesso come rientra il doppio room e l'amico Vela, io vado e vi faccio la carichina veloce veloce. Mi sa che io vado... io adesso vado, faccio una carichetta veloce e poi rientro, dai, e ci sentiamo a frappè. Ci sentiamo dopo, Giuseppe. Cappa, ci sentiamo dopo alla grande, e qualche buona carica anche a te se fai carica a batterie, dai. Ok Giuseppe, buona carica, dai, ci sentiamo a frappida, ok. Sono al cellulare, dopo ti richiamo, dai. Non c'è problema, io sono qua in ascolto, dai. Buonasera, Marchetto. Oh, carissimo Antonio Bombolo, ben entrato, ben sentito. Cappa, carissimo Marchetto, ben sentito anche a te. Allora, trabacchiata abbiamo oggi. Cappa, oggi abbiamo trabacchiato. È una durata e quattigata, come ti dice che sta cantona. Vero tu, io sono così accomodato oggi, oggi già mi ha giocato la tornata, eh? Ma Roger, vabbè dai, ce la teniamo com'è. Infatti, tanto beh, il mondo come lo giri, sempre rotondo, eh. mangiato hai? Mami, mi sto prendendo di bermi con la bella birretta che ho preso. Ma di rogero. Adesso io mi faccio un attimo di bianco, riempio il bicchiere, che vuoto qua, se non guai. Vinello? Chiamagava. Dai, dai, non ci stavano problemi. Ma che? Andava bene. Mi la butta assai a me. Io mi riempio un po' di rosso. Me lo metto vicino, c'ho la forchetta, lo bevo con la forchetta e poi sono a posto. Di sera per tempo si spera. Allora, un attimino mi che vuoi? La gappa. La riprendo subito, dai. Giacomo Mario. Ma troppo bella, c'è questo che necessita. Io sono nato prepotente in radio, quindi continuo a fare prepotente. Sempre nelle buone maniere, però, io uso le mie radio, poi ognuno usa le sue. Questa me la frutta mai là. Ok, io per fare una ragione. È stato un momento di inesperienza, non ti hanno riconosciuto e basta, te l'hanno mandato in fanguella. Non è un problema, Mario. Come trovate giù questa altezza, voi genere? Abbiamo deciso di fare una cosa un po' in tandem, di ricreare un po' una ruota a sintonia continua, nel senso che ci sia quelle persone che possano dialogare, fare, discutere e ricreare un po' l'armonia della situazione, qui non c'è problema per chi fa radio in un'altra maniera, non è giustamente il compito del mio e di nessuno giudicare e fare, ognuno fa radio come vuole. Noi abbiamo deciso di fare una certa maniera, la facciamo, perché mi sono messo in testa di fare, la faccio e va bene così, quindi di ricreare un po' la situazione. Non ho problemi di riprendere in mano tutto ciò che è mio, sempre coltivato e fatto, tutti i mani giù, sarò sotto zero. Dimmi una cosa invece, cosa stai usando adesso, quello da base? Non stai usando il gemello del mio? E il gemello del tuo, non lo senti? Cappa di positivo, no, per battaglia uso quello là, perché lo sa che io a questo qui, cioè, me lo sono sudato e niente, lo tratto con molto rispetto, con tanto di cappello. L'altro lo accendo, ci parlo subito, non è che aspetto che scaldi o che questo qui io me lo accendo con tutta tranquillità e aspetto che scaldi un poco prima di modularci, così vado sul velluto. No, non avevo le cuffie, sono mai tolte, ho visto che sì, che è quella. Chi è che vuole entrare? Adesso fare il fuoco. Senta Maria, dare fuoco? Minchia, già devo stare allegrando il cuore. Ma se vuole, un litro di benzina gliela posso sempre comprare per accendersi. Questo lo so, però sai, dare fuoco a una di quelle radio viene un po' male, anche perché sarebbe un controsenso. Ok, con chi abbiamo l'onore e il piacere di parlare? Avanti, buonasera, Claudio Sparviero, la Sassa, in compagnia di Mario Massa. Ciao, tutto bene? Sì, ciao, la salute, la sua battuta. questo mese alla solita riunione, perché ho anche necessità di farmi due chiacchiere con qualcuno. E niente, non è sempre il volume basso, non mi interessa. Non ce la faccio, basta, mi ero una caffè stasera, ma lì non proprio zero sotto zero. E prendi Mario, Vanino da Sorso comunque, Vanino Pantera da Sorso. Buonasera Vannino, mi hai sentito? No, io il fuoco non glielo faccio, già si scalda da solo, piano piano. E poi io queste cose qui, siccome sono delicate, le tratto come devono essere trattate. Poi per battaglia ce ne ho tanta demondezza che la metà basta, così che non ho problemi. Thank you. due o tre giorni senza ascoltare fare, non riesco a muovermi, va lì, tutto lì, capito? Comunque ho già fatto un giro di telefonate, quindi sicuramente riprenderemo anche un po' il passo qua, parte da quello che abbiamo, ma quelle 3-4 persone della serie nostra le riporto qua, e poi tutti gli altri che sono in QRX e che non hanno radio, se non hanno radio vedo di aiutarli io, poi si vedrà, ma è meglio restare a Bim Bum Bam dove tu sei. Non c'è problema, io di solito sto sempre o in 40 o in 20 che le antenne risuonano bene, per il resto no, oppure sono qua, ma sono qua da 2-3 giorni, perché prima era un po' assente, ma qualcuno me l'ha chiesto, la riprendiamo, la vedi in mano e vediamo di riscattare la situazione, perché di gente che vuole parlare ce n'è tanta, però le possibilità stavano diventando un po' critiche, allora. E così te la fa cupa, è troppo alto. Guarda adesso. Prova a fare un passaggio più lungo. Allora, 1, 2, 3, prova canale 21, prova radio. E il cupa è però. E come livello com'è? Non parliamo di cupetta.